detto, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come se quest'ora è giunta Siviglia di Dobria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi. Fermi, andiamo e li vedrete voi.